sacred vanity, terror practices, rule of freedom writing, bruciate tutto ragazzi, ribellioni diversi, Capitan Harlock, regola unica, libertà, oh vanità di un verso perso dentro, assificante inverso, trovarsi quindi per poi ancora perdersi, verso ritrovami su una pagina, ricoprimi di cash, la stanza nella mentre entro qui giocavo ancora da bimbo, quei soldatini perso, gesta innalzami, ovre l'occhio vede l'orizzonte trovarmi, particola di cielo, benedicimi dall'alto in un verso discendi, lì ivi mi trovai mentre corro nei miei guai, ancora là, in quel barco, il mio cappuccio con il liquore perso, genialoide perso, mentre uccido il mio mongoloide, entro in me, mitra. Io, ivi qui muerto, santa muerte, evocami un verso, ove terzo, lacrima, dilavami, lady, scottami, sospiro invocante, in un mala respiro, ove libro, sul prato riverso, ove ammirare meglio il cielo, come disse in divin dialogo Benigni, nella De Chirichiana Plaza, occhio omni misticista, spazio immenso, santa mala, evoca, ove psico in me, me forma mentis, loco, bimbo in me, gioco, non lasciare sul tappeto di cristallo e picassiano il pastello, asso e scacco d'orgoglio, di penna miglio verde, espello, fiato malato, ripiglio d'un tratto, libertà trema, fango è tornato, ora con cui vola oltre il mostro d'errore nel genio ritrovato, sacred vanity, theory of practices, rule of freedom, writing, bruciate tutto ragazzi, ribellioni diversi, Capitan Harlock, regola unica, libertà, oh vanità di un verso, perso dentro un significato inverso, trovarsi quindi per poi ancora perso, verso ritrovami, su una pagina ricoprimi di cash, su una pagina ricoprimi di cash, la stanza nella mentre entro e cui giocavo, ancora da bimbo, quei soldatini perso, gesta innalzami, ovre l'occhio vede l'orizzonte trovarmi, particola di cielo benedicimi, dall'alto di un verso discendi, lì ivi mi trovai mentre correvo ancora nei miei guai, ancora là in quel barco il mio cappuccio o liquore perso, genialoide perso, mentre uccido il mongoloide entro in me, mitra, mi punto alla testa un mitragliatore, guaritore, santa muerte, evocami un verso, ove terzo, lacrima di lavami, lady scottami, sospiro incalzante, in un mala respiro, ove libro sul prato, riverso, ove ammirare meglio il cielo, riverso.